Benvenuti per un altro episodio dell'Ora del Complotto preparato malissimo. Oggi non abbiamo avuto tempo, Manz non c'è, il resto come settimana scorsa non c'ero neanch'io, non ci sono nemmeno oggi, questa è tutta un'illusione, e non c'è una lista di canzoni, non c'è un vero e proprio programma. Parleremo della iettatura e forse quasi quasi mi leverei subito dalle balle Marco Masini, iettatore, conosciuto iettatore, non vero, sarà vero, non sarà vero, me lo levo subito con questa canzone che a me non è mai piaciuta. Forse lui non era uno iettatore, però un po' sfigato lo era. E niente, bella stronza. Why can't you understand that it is over? Wait! Now, listen to me. Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo, ne ho abbastanza. Bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo. Perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore, ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scappiamo insieme, non lo senti questo mondo come puzza? Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, tu non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio. E ogni volta che ti spogli non lo senti freddo dentro, quando lui ti paga i conti non lo senti l'imbarazzo del silenzio. Perché sei bella, bella, bella, bella stronza, che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza, la speranza. Sì, bella stronza, ti ricordi quando con i primi soldi ti ho comprato quella spilla che ti illuminava il viso e ti chiamavo la mia stella? Quegli attacchi all'improvviso che avevamo noi di sesso e tenerezza. Bella stronza, sì, perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore, come il cielo e come il mare, ma che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, esci dai tuoi pantaloni, mi accontento come un cane degli avanzi. Perché sei bella, bella, bella, mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza. E allora ti saluto, bella stronza. Yeah. sfigato, intendevo sfigato perché se guardate come è fatto il videoclip di questa canzone, concorderete con me, credo, nel giudizio. Giudizio leggero, in ogni caso. Comunque, la iettatura, Marco Masini a quanto pare era uno sfigato, portava sfiga, oltre ad essere sfigato che non si sapeva vestire, non sapeva come abbinare la propria voce e i suoi testi alla moda e ai videoclip. La iettatura mi verrebbe in mente di bruciarmi subito un altro video che è lo iettatore, però non ho idea di cosa uscirà da questo video. Qualcuno dice che è musica, ma mi sembra più una roba da programma Mediaset, non so, ho paura. Poi al massimo lo stoppiamo e vediamo cosa succede. In ogni caso, Masini era considerato un iettatore perché gli succedevano un sacco di cose sul palco, e come qualcuno mi ha fatto giustamente notare, le cose succedono, poi se c'è qualcuno che viene chiamato iettatore, a quel punto viene attribuito tutto a lui, è un po' un capro espiatorio per tutte le sfighe, non è una cosa carina da fare. E poi vedremo anche un'altra storia che è finita male a furia di dare dello iettatore a qualcuno. Bene, era una semplicissima colonna sonora di questo altro sfigato, chiamiamolo così, che ha partecipato a un programma in televisione, appunto, Avanti un altro. E niente, purtroppo non abbiamo una vera e propria canzone che si chiama Lo Iettatore, però abbiamo tanti artisti che così vengono definiti. Poi c'è anche una novella di Prandello che si chiama La Patente, che parla di questo iettatore. Forse Marta ci raggiungerà in studio per leggere un estratto. Nel frattempo noi possiamo, prima di andare a Mia Martini, che era la persona che è finita male a causa delle iettature, delle accuse di iettatura, possiamo passare alla sindrome di fine millennio degli uomini di mare, quindi Fabri Fibra, che credo lui stesso si sia definito in una di queste canzoni. Adesso io ho provato in quei 3 minuti prima della trasmissione a trovare la canzone esatta in cui diceva che portava sfiga, ma non l'ho trovata, quindi mi gioco tutto l'album come jolly da mettere durante questa puntata. E partiamo con la prima traccia dell'album, pubblicato nel 99 con l'etichetta indipendente Teste Mobili e bla bla bla, Sindrome, con El Presidente e DJ Inesha. Calcolando il tempo d'ando e ritorno, c'è quel che serve per lasciarti di stucco. Se ti va, flow, primo, vedi che ti capita. Pensi per ore, poi sprofondi nel caos. È ciò che vivi intorno al suono. Un solo pensiero, un solo amore. Uomini di mare. Un conto è far le cose per se stessi, e un conto è far le cose da se stessi per gli altri. Pugilata in produzione, presenza Fabri Phil, e questa qui è la sindrome di fine millennio. Uno, due, sorpresa, non mi è ancora scesa. Balla che imprese che attese, non contiamo la spesa. Che sai, tutte le volte che ti stressai, che pressai, la mia coscienza mi chiede ma che fai. Intesa, storia da parte ora come te presa. Intorno le voci girano che si sa, se stesa. La mia massa si è stesa dal velluto fino a Iglesia. Se tu fossi tranquilla all'interesti la presa. Ne sa, come lei sa, di originali indistinguibili come la coppia Kim e Shazan. Come non c'è la possibilità di trovarti in un ambiente in cui ci si spaesa, l'hai compresa. Quattro gradi all'ombra, il fine millennio che sgombra. Sicuro che già fra 4 anni una baraonda. Si studia a Londra e chi si sfonda pensando alla bimba bionda. Così le serate le passo con lati in ronda. Ora il mio cuore è un vero e proprio tamburo di fuoco. So che sei interessate, so anche 3 cose che noto. Che fiuto un minuto dopo dal lavoro compiuto, dedicata a chi resta vero nel gioco. è dedicata a chi sa leggermi negli occhi. Occhi che notti che fanno in pochi. Sogni un tuo mondo fatto di costellazioni, di suoni da nomi inesistenti rivelandoti illusioni. Ed è inutile poi dire che di noi non ricordi. D'accordi ti accorgi che non vengo dai sobborghi. Allungo il passo prima che i miei inchiostri si secchino. Un'altra base, un altro sucker che spettino. Parliamone con calma ridendo al chiaro di luna. In coppia come Forrest Gump e la sua piuma. Chissà se faremo fortuna. Rido perché non sono il tipo che si imparanoia quando fuma. A volte penso a come sarebbe più semplice rinunciare a tutto, compreso il meglio del debutto. Ma come spingere? Prima cosa stringere, non fingere. Che se vuoi vincere devi convincere. Che se vuoi vincere devi convincere. Missione sarà la sindrome di laga giù in strada, sacra come la sindone. C'è chi si sfonda a seconda della sua indole, inalando erba, bevendo, calando pillole. C'è gente strana che ama la colombiana, ma i leoni in savana fanno nessun marijuana. Compra il punk a Nueva York durante l'estate indiana. Muovo teste nelle feste, sia in Italia che in Germania. Gente guasta è pronta, la rivolta è sotterranea. Giù con Fabri Latte ed un DJ di Catania. Io concludo in studio e non ci sto una settimana. Andiamo subito all'ultima traccia di questo album. Portami con te via, finché sento che c'è sintonia. Diretti verso altri lidi, senti di mare i midi. È logico che sorridi, se trasmetto from city to city. E se ti piace andare in Cadillac, si va in Cadillac. Rapidi più di uno speedy. Allora che decidi, è inutile che mi sfidi. Se mi parli dei divi che invidi. Portami con te via, finché sento che c'è sintonia. Diretti verso altri lidi, senti di mare i midi. È logico che sorridi, se trasmetto from city to city. Compro una vocale, scommetto che la notte la passi rinchiusa dentro ad un locale. Pensi che io sia fuori del tutto, servi i miei soldi lentamente dove li butto. Conquisto il mondo con il tuo modo di fare. Oggi che dicono c'è ancora poco da inventare. Devi vedere poi che macchine, per ogni signorina che gode ce ne sono sette lacrime. Portami con te via, finché sento che c'è sintonia. Diretti verso altri lidi, senti di mare in media. È logico che sorridi, se trasmetto from city to city. E se ti piace andare in Cadillac, si va in Cadillac. Rapidi più di uno speedy. Allora che decidi, è inutile che mi sfidi. Se mi parli dei divi che invidi. Si naviga da intrighi a intrighi, indicandoti il tempo che manca verso altri lidi. Non è mai come credi per la tua lady, che poi dipende da quello che vedi. Individui che non c'è nulla di concreto alla base di che. Se me lo tieni un segreto, mi dispiace per te che sei rimasto con chi non si permette di girare in un nastro. Sono tempi mica facili, tempi di indagini, che ci troviamo spesso ad essere incapaci di osservare solo immagini appiccicate al nostro volto come mucillagini. Leggo il mio oroscopo, per questa settimana consiglia di far le rime con in corpo il fosforo. A tutto c'è una risposta, fine millennio, abituati all'idea mantenendo il contegno. La mia vita, ma aspetto che tu mi dica quale sia l'unica via d'uscita. La mia vita, che vuoi che dica, se con me non sei mai smentita. La mia vita, ma aspetto che tu mi dica quale sia l'unica via d'uscita. Quale sia l'unica via d'uscita. Portami con te via, finché sento che c'è sintonia. Diretti verso altri lidi, senti di mare in media. È logico che sorridi, se trasmetto from city to city. E se ti piace andare in Cadillac, si va in Cadillac. Rapidi più di uno speedy. Allora che decidi, è inutile che mi sfidi. Se mi parli di divi che invidi. Uomini, uomini di mare. Diretti verso altri lidi. Senti di mare in media. Se sorridi, se trasmetto, sei di nascita. Ecco, un po' più melodica l'ultima traccia di questo album, e finalmente abbiamo trovato una traccia che, anche se non è musicale, parla dello iettatore. E del resto è tratta dal libro di Pirandello, interpretata da Totò in uno dei vari adattamenti di questa novella. Non diremo altro, perché non siamo un'editoria, non siamo una radio, non siamo dei presentatori, e la manderemo in onda così. Infame. Ok, ma che sei, pazzino? Vieni dentro, devo parlare. Vieni. Aspettate un momento. Vieni qua. Vieni qua! È la seconda volta che mi hai assassinato. Io? Quando? Dove? Perché? Quando? Dove? Perché sei andato dal giudice a dirgli... Tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? Sei un, sì, sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un porta fortuna. Un porta fortuna? E allora perché non hai licenziato? E me lo domandi, ma io lavoro con i fuochi artificiali, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E poi tu tieni la mano pesante. C'ho la mano pesante, Lo riconosci che c'ho la mano pesante? Come? No? Ma perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono nel velo della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò? E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore! E non mi hai cacciato via, figlio d'un cane! E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un iettatore! Ma non è vero! È vero! Sono un iettatore! No. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice! Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un iettatore? Sì! Rosariuccia, no! Dico tutto quello che vuoi! Anatema a te! No! Abbassa quella mano! Anatema ti colga! Anatema! Siamo qui a leggere mo un estratto da Wikipedia, grandissima enciclopedia online, c'ha tutto a sapere del mondo, per capire quali sono i temi dell'opera di Pirandello, e secondo me riusciremo a estrapolare anche qualcosa di interessante da raccontare. Dunque, i temi dell'opera: emergono alcune tematiche care a Pirandello, come gli intrecci relazionali fra gli uomini resi alterati, inquinati dai preconcetti e soprattutto dalle proiezioni che vengono applicate sui soggetti bersaglio in base alla apparenze, all'esteriorità e ai giudizi superficiali. L'insoddisfazione del protagonista si può accomunare a tutti gli uomini morti, viventi un'epoca di svolte, di incertezze e privi di un doveroso e profondo senso della vita. Dunque, questa cosa è un po' complottista, ci possiamo allacciare in tante maniere. È un po' come dire come si chiama? L'oroscopo? L'oroscopo non è fondato, però se tu proietti e continui a proiettare un'immagine di te che è quella che vorresti essere in base a quello che ti viene detto, scritto e ripetuto, eventualmente qualcosa di te cambia, ovvero tu pensi dalla nascita di essere un ariete con certi tratti e certe cose, può darsi anche che questi tratti e queste caratteristiche tu le assorbi un poco. Poi adesso non spaventatevi, non so perché mi abbia preso questa vena con questo accendo oggi, però sarà il gomblotto. È così. Dire a qualcuno che è un iettatore, poi alla fine uno si a parte che si prende male, poi ci può anche credere. Non solo, ma ci possono credere anche gli altri. Il caso di Mia Martini, per esempio, brevemente raccontato, poi vi raccontiamo anche brevemente la novella di Pirandello, perché qua su Wikipedia c'è un riassunto, ma è troppo lungo. La vicenda di Mia Martini, sorella di Loredana Bertè, che adesso andiamo ad ascoltare con Il mare d'inverno, perché nonostante oggi ci sia un sole fantastico, è bene ricordare questo inverno lungo e mezzo mite, mezzo freddo, così almeno gli diamo un addio. Poi non so se l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già messa questa canzone, ma vabbè, ce la riascoltiamo, per me volentieri. Mia Martini si è suicidata, o comunque in qualche modo magari la verità non si è stata fatta fuori, dopo che per diverso tempo era stata accusata di iettatura, di essere una iettatrice, e veniva costantemente e ripetutamente tagliata fuori dai vari festival, dalle varie trasmissioni, da Sanremo, perché appunto accusata di questo. Allora io vi lascio col mare d'inverno, vado a rispondere al citofono perché dovrebbe iniziare il laboratorio del giardinaggio. Ho due tracce di Mia Martini che non ho mai sentito in vita mia da mettere, ma potrei cercare qualcosa su Mia Martini e vedere se c'è scritto quanta sfiga portava in verità l'infanzia, gli esordi, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, e comunque insomma è arrivata le discordie con la Polygram, la morte improvvisa, zon zon. Deve essere qualcuno deve aver editato recentemente Wikipedia per non farci trovare le informazioni corrette. Beh, qua ci sono un po' di... Qua dice che la trattano male, che assumeva psicofarmaci, che non stava bene, che però non c'è molto di iettatura. Discordia con la Polygram. Fatica. Iniziamo ad ascoltarcela, poi vediamo se troviamo qualcosa da leggere. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. So sempre tua quanto vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte sola. Su noi di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via sempre ubriaca di malinconia. Sì, la sua carriera è stata ostacolata, ma questa canzone famosissima la conosciamo tutti. Forse postumamente ha avuto più fama. Comunque tutto nasce da un impresario che le aveva offerto un contratto e che lei ha rifiutato, e lui ha iniziato a dichiararla iettatrice e portava iella, ovviamente, per vendicarsi. E una cosa che piano piano all'inizio sembrava piccola, ci si scherzava sopra, a un certo punto non solo lei stessa ci scherzava sopra, ma a un certo punto anche gli amici più vicini iniziarono a crederci, diciamo. Brutta storia, ma siamo pronti con Marta, che ci leggerà un estratto scelto da lei, tra l'altro. Siamo tutti curiosissimi. Ma lo sa che io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato dall'avvocato Lorecchio a dargli sotto mano tutte le prove del fatto. Cioè che non solo io mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor giudice. Prove documentate, testimonianze irrepetibili, sa? Irrepetibili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente la mia fama di iettatore. Voi? Come? Voi siete andato a dare le prove all'avvocato avversario? All'Orecchio? Sì, signore. Vi confesso che capisco ancora meno di prima. Meno? Lei non capisce niente. Ma scusate, siete andato a portare codeste prove contro di voi stesso all'avvocato avversario? Perché? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei due? E perché allora vi siete querelato? Ma in questa domanda è appunto la prova, signor giudice, che lei non capisce niente. Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisci ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che è ormai l'unico mio capitale, signor giudice. Ah, povero Chiarchiaro mio. Ora capisco, bel capitale, povero Chiarchiaro. E che te ne fai? Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Lei, caro signore, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? Sì, la laurea. E dunque, voglio anch'io la mia patente. La patente di iettatore, con tanto di bollo. Bollo legale. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. Ma e poi che te ne farai? Che me ne farò? Ma è dunque proprio deficiente, lei? Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Ah, le par poco? La patente sarà la mia professione. Io sono stato assassinato, signor giudice. Sono un povero padre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via e buttato in mezzo a una strada perché iettatore. In mezzo a una strada con la moglie paralitica, da 3 anni in fondo al letto. E con 2 ragazze che se le vede, signor giudice, le strappano il cuore dalla pena che le fanno. Belline tutte e due, ma nessuno vorrà più saperne perché figlie mie, capisce? E lo sa che campiamo adesso tutte e 4? Del pane che si leva di bocca il mio figliuolo, che ha pure la sua famiglia, 3 bambini. E le pare che possa fare ancora lungo il povero figlio mio questo sacrificio per me? Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Ma che ci guadagnerete? Che ci guadagnerò? Ora glielo spiego. Intanto mi vede, sono combinato con questo vestito che faccio spavento, questa barba, questi occhiali. Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo. Lei mi dice come? Me lo domanda, ripeto, perché è mio nemico. Ma io? Ma vi pare? Sì, signore, lei. Perché si ostina a non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono. Questa è la mia fortuna. Ci sono tante case da gioco nel nostro paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir niente. Il tenutario della casa e i giocatori mi pagheranno sotto mano per non avermi accanto e per farmi andare via. Mi metterò a ronzare come un moscone intorno a tutte le fabbriche. Andrò ad impostarmi ora davanti a una bottega, ora davanti a un'altra. Là c'è un gioielliere. Davanti alle vetrine di quel gioielliere io mi pianto lì. Mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri più a comprare in quella bottega una gioia o a guardare quella vetrina? Verrà fuori il padrone, mi metterà in mano 3-5 lire per farmi scostare e impostare le sentinelle davanti alla bottega del suo rivale. Capisce? Sarà una specie di tassa che io d'ora in poi mi metterò ad esigere. Ma la tassa dell'ignoranza? Dell'ignoranza? Ma no, caro lei. La tassa della salute. Perché ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo, signor giudice, d'avere qua, in questi occhi, la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Si tocchi per Dio. Non vede? Lei è rimasto come una statua di sale. Si alzi, via, e si metta a istruire questo processo che farà epoca, in modo che 2 imputati siano assolti per inesistenza di reato. Questa vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale della mia professione di iettatore. La patente. La patente, sì signore. Sappiate, tutti voi che portate sfiga in giro per il mondo, che dove vi accadono cose ogni volta che fate qualcosa insieme a qualcun altro, per stare nello specifico, rivolgetevi direttamente a un giudice e fatevi dare una patente. E la patente do iettatore. Adesso abbiamo appena editato la pagina di Wikipedia noi per scrivere cosa è successo veramente a Nina Martini. Quindi da interprete a cantautrice al ritiro dalle scene inizio anni 80. Nell'83, per l'appunto, per precisione, decide di ritirarsi dalle scene a causa di alcune dicerie nate circa 10 anni prima e divenute insistenti, sempre più insistenti, che legano la sua fama a fatti negativi. Poi andiamo ad ascoltarci Piccolo Uomo. La stessa Mia Martini anni dopo dichiarerà in merito a questo periodo: la mia vita era diventata impossibile. Anzi, facciamo leggere a Marta quello che diceva Mia Martini, già che è qua, abusiamo. la mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro e tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C'era gente che aveva paura di me, che per esempio rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch'io. Mi ricordo che un manager mi scongiurò di non partecipare a un festival, perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti. Eravamo ormai arrivati all'assurdo, per cui decisi di ritirarmi. Sempre a questo proposito, Lamartine avrà modo di dichiarare in un'intervista su Epoca del 5 marzo 89: la delusione più cocente me la diede Gianni Boncompagni, un amico per l'appunto. Una volta fui ospite a Discoring. Lui era il regista. Appena entrai in studio sentii Boncompagni che diceva alla troupe: ragazzi, attenti, adesso può succedere di tutto. Salteranno i microfoni, ci sarà un blackout. E Mia Martini, nella stessa intervista, spiegherà anche come ebbe inizio la storia infamante che segnò profondamente la sua carriera artistica e la sua storia umana, quella di cui abbiamo parlato, dell'impresario. Tutto è cominciato nel 1970. Allora cominciavo ad avere i primi successi. Fausto Paddeo, un impresario soprannominato Ciccio Piper, perché frequentava il famoso locale romano, mi propose un'esclusiva a vita. Era un tipo assolutamente inaffidabile e rifiutai. Dopo qualche giorno di ritorno da un concerto in Sicilia, il pulmino su cui viaggiavo con il mio gruppo fu coinvolto in un incidente. Due ragazzi persero la vita. Ciccio Piper ne approfittò subito per appiccicarmi l'etichetta di Portaiella. Chissà, aprirei un'inchiesta su questo incidente per vedere se non l'ha fatto Ciccio Piper, che sicuramente da questo momento è il mio nuovo soprannome preferito, che diventerà la parola della settimana. Nell'82 poi dichiarerà Martini in un'intervista a Gianfranco Moriondo: tra i primi a dire che Portoiella sono stati Patti Pravo e Fred Buongusto. Poi è stata la volta della Rai, che ha cominciato a non mettere più in onda le mie canzoni, quindi i discografici, che rifiutavano le mie canzoni. Sì, ecco, diciamo che è un po' pesante questa Mia Martini, perché del resto, dopo aver abbandonato la sua carriera nell'83 perché la gente diceva che gli chiudeva le porte in faccia, che l'accusava di Iella, poi ha vinto Sanremo, cioè, insomma, non le è andata proprio male, e forse girava un po' troppo cocaina in quell'ambiente. Ops. Però ascoltiamoci una delle sue bellissime canzoni, Piccolo Uomo. se mi lascerà. Io c'ho già la canzone di chiusura. Adesso stavamo cercando, oltre alla canzone di chiusura, una poesia o una preghiera o qualcosa per scacciare un malocchio, che dopo tutta sta puntata sulla Iella non si sa mai che ci rimanga nelle cuffie, negli altoparlanti, sul microfono. E quindi toccatevi, come dice Totò, toccatevi, fate gli scongiuri, peperoncino, la tetta sinistra per le donne, il testicolo sinistro per gli uomini. Niente, partiamo allora con la song di chiusura e dobbiamo dirlo, chiuderemo la prima puntata dell'ora del complotto sotto all'ora di tempo. Quindi questa non è l'ora del complotto, sono i 47 minuti e 35 secondi del complotto. E niente, poi diamo un caloroso abbraccio a Jack Manz, che ci sta ghostando male da 2 settimane. Abbiamo ghostato entrambi per 2 settimane. In questo è l'episodio 8, ma poteva essere l'episodio 9. Andiamo con questo Alberto Selli, Malocchio e ciucciuvettole, Malocchio e civette dall'arrembaccio. Vediamo cos'è. Io non ho mai ascoltato, però sembrava indresciando un po' di tarandella. Voglio. Quindi buona domenica a quelle milioni e mezzo di giapponesi che ci stavano ascoltando. Alla prossima! E stavolta vi lascio senza... Beh sì, con questo show da malocchio e ciuvettole. E grazie Marta. Prego. Da letto, eh? C'era un foglio con su scritto prego. Ciao belli, buona domenica. Alla propria voce, e possiamo passare a la sfigato tutti gli uomini morti viventi, sarà il gomblotto ciccio Piper e malocchi e ciuvettole